C'è sempre una ciocca fedele al proprio essere, che sfugge al diktat della piastra, del liscio a ogni costo, dell'esteticamente corretto. La volpe che la strada attraversa resta lì, come un fatto che lei stessa non vuole crei clamore, come il fiato dei musicisti tra le note. Gonfia di passi muti i pentagrammi, eppure si racconta nel silenzio e nel buio di una stanza abbia fatto piangere qualcuno. L'usignolo si schiarisce la gola nella folata che struscia sonora tra gli aghi sul timo selvatico, incustodito ai piedi delle querce, i secolari cardini del bosco. Tra i castagni più radi e spaccati, a dimora di ricci e di lepri, terra di passi notturni di volpi, uno schiocco improvviso. Poi largo, in volo di uno stormo spaventato.